cielo che ben vedea quanti io l'amassi intatta, mi toglie il padre e mi preserva il figlio. Strano amor, può regnar per regnar seco, può che gli abbia un diadema da me, non del suo sangue.